notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Tutti i potenti della Terra alle celebrazioni per Nelson Mandela sotto una pioggia battente. È stato un gigante della storia, dice Obama dal palco, ma non credeva di essere un santo. Anche per questo lo amiamo così tanto. Prosegue la protesta dei forconi, bloccati binari ad Imperia. Grillo dice può essere l'inizio di un incendio. Il leader 5 Stelle chiede alle forze dell'ordine di non proteggere più i palazzi delle istituzioni e i politici. Napolitano, il paese è in un mood negativo, dobbiamo reagire, basta con il frastuono delle polemiche, non ci sono elezioni in programma, aggiunge il capo dello Stato. L'evasione è un pericolo per la democrazia, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera, Saccomanni, dobbiamo contrastarla senza rendere il sistema fiscale un ostacolo all'economia. People of every race and every walk of life, the world thanks you for sharing Nelson Mandela with us. Il mondo vi ringrazia per aver condiviso Nelson Mandela con noi, così Barack Obama in un discorso molto sentito, molto forte e applauditissimo nel giorno delle celebrazioni per la morte di Nelson Mandela. In uno stadio, quello di Johannesburg, che sta accogliendo tutti i potenti della terra e ci sono naturalmente anche le istituzioni italiane con il presidente del Consiglio Enrico Letta, ma non solo. Lorenzo Simoncelli si trova là, buongiorno Lorenzo. Sì, buongiorno da Johannesburg. Allora, chi sta parlando in questo momento? In questo momento è il turno del presidente del Brasile, Dilma Rousseff, che ha preso appunto la parola 5 minuti dopo che è terminato il discorso del applauditissimo presidente americano Barack Obama. E dopo la presidente del Brasile ci sarà l'attendissimo discorso del presidente cubano Castro. Raul Castro, col quale tra l'altro a quanto pare Obama si sarebbe stretto la mano, almeno questo è quello che riferisce l'agenzia Reuters. Raccontaci il discorso di Obama, Lorenzo. Sì, un discorso durato quasi mezz'ora in cui Obama ha definito Nelson Mandela, il suo grande eroe politico, uno dei più grandi lottatori del XXI secolo, richiamando tra l'altro appunto il celebre discorso fatto da Nelson Mandela prima di essere condannato ai 27 lunghi di anni di prigionia durante il processo di Rivonia. Un richiamo che naturalmente ha generato il grandissimo delirio nella folla che ha applaudito il discorso di Obama dall'inizio alla fine. Poi si è soffermato su un messaggio molto importante per il Sudafrica, e cioè ha detto in questo momento c'è bisogno di unione e non separazione razziale e dovete onorare il vostro maestro Nelson Mandela. Infine la conclusione del suo discorso attraverso appunto un grande grido dicendo appunto Madiba ci mancherai moltissimo. Lorenzo, ultima domanda, com'è lo stadio nel quale sono raccolte le persone, sono raccolti i potenti della terra, perché insomma ci sono stati un po' di problemi agli arrivi proprio a causa della pioggia, no, che c'è oggi? Sì, assolutamente la giornata non è stata affatto favorevole. Il Soccer City Stadium, che doveva addirittura non bastare per tutte le persone che erano previste, possiamo dire che è metà vuoto, quindi ci saranno appunto circa 40-50 mila persone invece delle 200 mila previste. D'altronde appunto la pioggia da questa notte alle 4 di mattina è completamente incessante, quindi questo sicuramente non ha aiutato. Tuttavia il popolo sudafricano, per tutta la durata dell'evento, da questa mattina alle 5 fino a oggi, non ha smesso un secondo di inneggiare e cantare al loro eroe Nelson Mandela. Grazie a Lorenzo Simoncelli dallo stadio di Johannesburg, dove ci sta raccontando questa cerimonia. Noi passiamo all'Italia e passiamo alla situazione della protesta, di questo sciopero cosiddetto dei forconi, con una serie di blocchi che si stanno moltiplicando un po' in tutta Italia. La situazione più critica al momento appare in Liguria, dunque partiamo da qua con Andrea Ferro. Andrea, buongiorno. Buongiorno Simone. Ad Imperia alcune decine di manifestanti hanno prima bloccato il casello autostradale di Imperia Est e poi alle 11 per 35 minuti hanno occupato i binari alla stazione di Oneglia, così come era successo ieri per ore. La circolazione dei treni è ripresa con ritardi e ripercussioni su tutta la rete del Ponente. Mentre vi parlo, i manifestanti, circa un migliaio, bloccano l'Aurelia all'altezza di Porto Maurizio. A Genova centinaia di persone stanno affollando Piazza De Ferrari, tra loro anche una rappresentanza di studenti delle scuole superiori. Non ci sono blocchi stradali e pare oggi non ce ne saranno. I portavoce del Movimento 9 Dicembre, che dicono di non essere i forconi ma solo una realtà spontanea, nata e cresciuta via web, hanno preso le distanze dal gruppo che ieri pomeriggio aveva invaso i binari alla stazione Brignole, ma sostanzialmente si sono detti impotenti di fronte alle infiltrazioni. Oggi comunque, nel caso di nuovi tentativi di assalto ai binari, la polizia non starà a guardare. Così è stato deciso nel vertice convocato in prefettura. Da ore le stazioni ferroviarie genovesi sono presidiate da contingenti di carabinieri e polizia. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro, saluto una delle anime della protesta, Lucio Chiavegato, che si trova in Veneto, è presidente dell'IFE, Liberi Imprenditori Federalisti Europei, buongiorno. Buongiorno. Prima però di parlare con lei, voglio farle sentire che cosa ha detto, o meglio, ha scritto oggi Beppe Grillo. Questa volta dal suo blog Beppe Grillo si rivolge ai capi di polizia, carabinieri ed esercito. A loro il leader del Movimento 5 Stelle chiede di non proteggere più l'attuale classe politica, colpevole a suo giudizio di aver portato il paese allo sfacelo. Invece di scortare le auto blu o presidiare i palazzi del potere, Grillo invita le forze dell'ordine a fraternizzare con la protesta dei forconi. Lo spunto è quanto accaduto ieri a Torino, dove alcuni agenti in tenuta antisommossa si sono tolti il casco, un gesto di solidarietà nei confronti dei manifestanti, anche secondo l'ex comico. Nelle prossime manifestazioni ordinate ai vostri ragazzi di togliersi il casco e di fraternizzare con i cittadini. Sarà un segnale rivoluzionario, pacifico ed estremo e l'Italia cambierà, scrive Grillo. La protesta di ieri può essere l'inizio di un incendio o l'annuncio di future rivolte forse incontrollabili, avverte poi il leader dei 5 Stelle, secondo il quale i disordini di ieri sono per la maggior parte dovuti a gente esasperata per le sue condizioni di vita e per l'arroganza e il menefreghismo di una classe politica che non rinuncia ad alcun privilegio e pensa solo a se stessa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo notizie anche dalla Puglia, dove un gruppo di manifestanti è occupato dalle 12 binari ferroviari della stazione di Cerignola. I treni in arrivo vengono fermati nelle stazioni di Barletta e di Foggia. Dunque, Lucio Chiavegato, presidente dell'IFE, Liberi Imprenditori Federalisti Europei. È l'inizio di una rivolta, come dice Grillo? Ma buongiorno intanto, ma l'inizio della rivolta sicuramente è l'inizio della protesta della gente e del popolo italiano che sta protestando contro questa classe politica inefficiente ed incapace di gestire il nostro futuro ed il presente. Quindi tengo a precisare, perché voi spesso vi limitate a dire che è la protesta dei forconi, ma non è la protesta dei forconi. Solo i forconi, l'IFE ed altre associazioni hanno dato il via a questo. Adesso è la protesta di tutto il popolo italiano che si è stancato veramente di essere preso in giro. Le vorrei chiedere, Chiavegato, che cosa volete e che cosa chiedete? Noi chiediamo cose molto semplici e democratiche di uno Stato che dovrebbe essere democratico. Intanto chiediamo che tutta la classe politica e burocrate di questo Stato qua, che ha gestito e sicuramente ha dato prova di incapacità della gestione pubblica, si dimetta e vada a casa. E dopo chiediamo dei processi anche per le persone che hanno rubato, che hanno sottratto denaro pubblico, che sono inquisite. Chiavegato, e una volta che questa classe politica se n'è andata a casa, che succede? Allora, questa è la classica domanda di pensare al dopo e liquidare il presente. Io ripeto, abbiamo un problema qui imminente, che è quello di salvaguardare il nostro presente, le nostre aziende e il futuro dei nostri figli. Noi in questo momento qua dobbiamo alzare la testa per dire basta, per dire veramente non possiamo più sopportare di prendere lezioni di vita da questi incapaci e corrotti. Il dopo sarà il popolo a deciderlo, non sarà certamente la stessa classe. In che politica. Modo? In che modo lo decide il popolo? Ma guarda, il modo, ci sono moltissimi modi democratici per fare questo. Abbiamo avuto il Belgio, che è stato 2 anni senza governo e il Belgio non è andato a fondo, anzi ha ridotto il debito pubblico. Abbiamo avuto l'Islanda, che ha fatto dimettere tutta la classe politica, burocrata e bancaria del paese ed ha rifatto una consulta popolare dove ha eletto i propri esponenti e i propri rappresentanti. In Italia ci troviamo di fronte ad una classe politica che non è legittima in quanto, primo, il Parlamento non l'abbiamo votato noi, ma è stato nominato dalle segreterie di partito. Secondo, abbiamo il Senato, che ci ha detto la Corte Costituzionale che è illegittimo, Terzo, abbiamo anche un Presidente della Repubblica che aveva promesso in diretta al popolo italiano che non si sarebbe ripresentato a fare il Presidente della Repubblica. Questa, se questa okay. è la nostra classe politica. Chiavegato, allora voi chiedete dimissioni di tutti. E chiede un ascoltatore via SMS, anzi un'ascoltatrice, dice, chiedete a quelli che protestano, ma da dove vi viene il diritto di parlare a nome del popolo italiano? Da dove ci viene? Perché noi siamo il popolo italiano, perché noi non siamo dei politici burocrati, mi scusi, noi rappresentiamo i piccoli imprenditori, agricoltori, allevatori, autotrasportatori, disoccupati. Adesso oggi a Soave sono scesi in piazza anche con noi gli studenti, 500 studenti sono scesi in piazza con noi, perché il messaggio non è questione di diritto. Ma mi scusi, l'ascoltatrice si chiede invece dov'è il diritto di quelli che stanno facendo le leggi sulle nostre spalle. Dov'è che chi gli ha dato il diritto di fare questo qua? Chi? Senta, fino a quando andrete avanti, Chiavegato? Ad oltranza, fino a che non se ne andranno a casa. Questa è la protesta che noi portiamo avanti. E domani, se domani Letta riceverà ancora, ripeto, Letta, un governo illegittimo, un Presidente del Consiglio che è stato messo lì dal Presidente della Repubblica, che non è stato nemmeno votato. Se riceverà la fiducia? Se riceverà la fiducia, allora la manifestazione la sposteremo verso Roma. Ah, ok, sposterete verso Roma domani se Letta otterrà... Non domani. Domani a Roma c'è un'altra manifestazione che non è quella nostra. Sì, è quella della FIOM, sì. Quindi se Letta ottiene la fiducia, scendete su Roma. Scendiamo o saliamo, dipende dai punti. Vabbè, di sì, da dove si parla. Mariano Ferro partirà dalla Sicilia, voi e lei partirà dal Veneto e quindi vi incontrerete Mariano a metà Ferro, strada. Mariano Ferro, Danilo Calvani e molti altri che partiranno dal Lazio, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, dal Lazio, dalla Toscana, tutte le regioni scenderanno a Roma o saliranno. Ecco, questa è la cosa che faremo. Chiavegato, esclude episodi di violenza? Ultima domanda. Molto velocemente. Sì, abbiamo condannato gli episodi di violenza di Torino perché non sono stati fatti da noi, ma da piccole frange estremiste. Ieri abbiamo allontanato dai nostri presidi degli altri persone che si sono intrufolate dentro per attaccare briga con le forze dell'ordine. E ripeto, i nostri nemici non sono le forze dell'ordine, i nostri nemici sono quelli illegittimati a cui stanno seduti nel Parlamento e nelle stanze dorate. Quelli sono i nostri nemici. Allora grazie a Chiavegato, e anche della situazione politica ha parlato oggi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ha detto, tra le altre cose, che l'Italia è un paese in un mood negativo, in un clima, un mood che non è esattamente di fiducia, e noi ora dobbiamo reagire. Sentiamo alcune delle parole del Presidente della Repubblica. Abbiamo bisogno di dare sicurezza ai giovani, che ci occupiamo di queste loro difficoltà, che cerchiamo di darvi risposta, e in questo senso è molto importante che ci siano dei momenti e dei luoghi di riflessione e di scambio su problemi reali del Paese e del suo futuro, al riparo dal frastuono delle polemiche politiche e così, consentitemi, dannatamente sempre elettorali, anche quando non ci sono elezioni dietro l'angolo, per quanto sia molto di moda invocarle ogni momento. Veniamo al PIL nel terzo trimestre 2013, che segna una variazione congiunturale nulla, interrompendo quindi la caduta iniziata nel terzo trimestre 2011, ovvero 8 trimestri prima, 2 anni fa. Questo è quello che dice l'Istat, secondo il quale però la fine della recessione non può essere ancora dichiarata, anche perché non è compito dell'istituto certificarlo. Il dato: nel terzo trimestre 2013 il prodotto interno lordo è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, mentre è sceso dell'1,8 su base annua. La produzione industriale nella media dei primi, e poi ci sono i dati sulla produzione industriale, che nella media dei primi 10 mesi del 2013 risulta in calo del 3,5% su base annua, anche se si registra una risalita nell'ultimo mese dello 0,5%. Intanto si parla, e molto, lo avete sentito anche dalle notizie iniziali che vi diamo sempre in effetto giorno, si parla molto di evasione fiscale. Lo ha fatto oggi anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. incompatibile con la democrazia perché produce effetti distorsivi sulla concorrenza e genera iniquità sociale. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, usa parole dure contro l'evasione fiscale, tema che a suo dire deve essere rimesso con forza al centro dell'azione di governo. Nonostante l'impegno di questi anni, molta strada infatti resta da fare. Le tasse evase sono insomma un macigno che pesa sulla nostra economia. L'ammontare, ricorda Befera, è stimato dalla Corte dei Conti intorno ai 130 miliardi di euro l'anno. Visto l'ordine di grandezza, il rafforzamento della lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale è non solo una questione di entrate, ma anche di equità sociale. Infatti il fenomeno complessivo dell'economia sommersa ha ricadute pesantissime sul sistema economico e sociale del Paese. D'accordo il ministro dell'Economia Saccomanni, l'evasione favorisce la corruzione, pregiudica l'economia, impedisce il riscatto sociale. Occorre contrastare il fenomeno per tutelare le imprese sane, rendendo più efficiente l'azione amministrativa di accertamento dei tributi. Tuttavia mette in guardia Saccomanni, bisogna evitare al tempo stesso di trasformare il sistema fiscale in un ostacolo per la crescita della nostra economia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questo torneremo, di questo torneremo a parlare, torneremo a commentarlo tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È stato un gigante della storia, sono le parole di Obama dal palco allo stadio di Johannesburg per le celebrazioni per la morte di Nelson Mandela, il tutto sotto una pioggia battente. Non credeva di essere un santo, aggiunge il presidente americano, anche per questo lo amiamo così. Prosegue la protesta dei forconi, bloccati i binari ad Imperia, Grillo dice può essere l'inizio di un incendio, il leader 5 Stelle chiede tra l'altro alle forze dell'ordine di non proteggere più i palazzi delle istituzioni e dei politici. Tra poco ci collegheremo con il capo del sindacato di polizia, il SIULP. Napolitano, il paese è in un mood negativo, dobbiamo reagire, basta con il frastuono delle polemiche, dice il capo dello Stato, non ci sono elezioni in programma. E noi continuiamo adesso a parlare di evasione fiscale. Per un commento a quello che abbiamo sentito subito prima della viabilità al servizio della nostra Alessandra Schepisi, che ci riferiva alle parole del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che dice l'evasione fiscale è di una dimensione tale che mette a rischio la democrazia. Salvatore Padura del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Certo che anche il sistema fiscale in se stesso non è che aiuti tanto la qualità della nostra democrazia. No, no, certo, insomma, parlare di evasione fiscale è sempre complicato perché diciamo, gli aspetti da considerare sono molteplici, perché voglio dire, è evidente, e il direttore dell'Agenzia delle Entrate oggi lo ha ripetuto, che diciamo, la questione evasione è anche una questione di equità sociale, no? È una questione di legalità piuttosto che di illegalità, ma è altrettanto evidente come diciamo, un sistema che come il nostro è diventato assolutamente complicato, assolutamente intricato, laddove insomma l'azione dell'amministrazione non è sempre trasparente, diventa purtroppo diciamo, un alibi all'evasione fiscale stessa, per cui diciamo, abbiamo un sistema fiscale che finisce per diventare insomma, un ostacolo, no? Sulla via della crescita dell'economia del paese, eccetera. E in questo contesto l'evasione riesce a trovare una, a mio avviso, ingiusta giustificazione, per cui quello che si deve fare è diciamo, portare avanti di pari passo l'idea che diciamo, il sistema si debba snellire, debba diventare più accessibile, più semplice, e da questo presupposto partire utilizzando i tantissimi strumenti che già l'amministrazione possiede per fronteggiare davvero e sconfiggere davvero l'evasione fiscale, promessa che sentiamo ripetere da anni, o oserei dire anche da decenni, e che però insomma mi sembra che abbia dato pochi risultati. Grazie a Salvatore Padura del Sole 24 Ore per essere stato con noi e per questo commento. A chi ci scrive via SMS a proposito della protesta dei cosiddetti forconi e non solo, di una serie di altre associazioni, ci dice: assurdo dare così tanto spazio a chi dice così tante corbellerie. Insomma, che vi possiamo dire? Lo spazio lo diamo. C'è anche tanta gente che ci scrive invece in solidarietà a chi sta protestando in questo momento. Eravamo curiosi di capire le ragioni di questa protesta. Andiamo all'estero, in Ucraina, dove si protesta, ma si protesta per altri motivi, in favore degli accordi con l'Unione Europea, e questa notte nuovo sgombero della piazza. Antonella Scotto, è così? Buongiorno. Sì, certo, buongiorno. Qui a Kiev più passano i giorni, più è difficile immaginare quale potrà essere per l'Ucraina la via d'uscita da questa crisi. Il braccio di ferro tra governo e opposizione continua, i manifestanti filo-europei sono ancora in piazza, nel gelo e nella neve, e insieme agli schieramenti delle forze dell'ordine. La novità appunto è che nella notte le truppe antisommossa hanno smantellato le barricate che circondavano tutti i palazzi governativi e hanno spinto via i dimostranti, che ora sono sotto assedio nella grande piazza dell'Indipendenza, che è il cuore della protesta e dove ormai in 2000 vivono tra le tende il palco dove intervengono i loro leader per chiedere le dimissioni del governo. E in questo il presidente Yanukovych sembra muoversi a tentoni, lancia segnali a Bruxelles, incontra Putin, manda le truppe per strada ma senza usare più troppo le maniere forti. Oggi ha invitato l'opposizione a una tavola rotonda e per prepararla ha visto i tre presidenti ucraini che lo hanno preceduto nel tentativo di trovare una soluzione politica. Oggi a Kiev c'è anche Catherine Ashton, la responsabile per gli affari esteri della UE. Ma in tutto questo per ora ancora non si riesce a vedere un segnale convincente che permetta di dire che governo e opposizione hanno trovato il punto di partenza per arrivare insieme a una soluzione pacifica. Grazie Antonella Scott del Sole 24 Ore. Allora, iniziamo a darvi qualche altra notizia su questa protesta che sta attraversando l'Italia. Innanzitutto il segretario generale di Trasporto Unito, Maurizio Longo, il quale dice che sono pronti a portare questa protesta a Roma, pronti a portare la protesta ai tir a Roma, come in parte abbiamo già sentito poco fa. Nel frattempo è in corso è stato convocato per oggi alle 16 un vertice al Viminale con le forze dell'ordine proprio sulle manifestazioni di protesta del movimento dei forconi. Vedremo se riusciremo a tornarci tra poco. Stiamo cercando di collegarci con il segretario generale del SIULP, il sindacato di polizia, anche per capire un po' meglio quella vicenda dei poliziotti che ieri si sono tolti i caschi durante alcune delle manifestazioni, in particolare a Torino. E però adesso invece andiamo in Sardegna, appuntamento quasi quotidiano il nostro per non lasciare soli i sindaci colpiti dall'alluvione. Sebastiano Sannitto, sindaco di Verchidda, buongiorno. Buongiorno a voi. Come vanno le cose? Beh, qui siamo sempre in attesa, il tempo è migliorato, l'alluvione è passato, però ha lasciato le tracce e nessuno si è più occupato di intervenire per aiutarci a cancellare un po' del disastro che è stato prodotto. Quanti danni avete dalle vostre parti, nel vostro comune, nel suo paese? Beh, nel mio comune fortunatamente non è interessata la parte urbana, ci sono danni molto importanti in agro e quindi le aziende agricole principalmente, e tutta la viabilità rurale è stata danneggiata notevolmente dall'alluvione. Ascolti, sindaco, ha già quantificato i danni? Diciamo che sulla parte pubblica si tratta di qualche centinaia di migliaia di euro e poi però ci sono tutti i danni che stiamo procedendo a verificare per quanto riguarda le aziende agricole, che sono notevoli. Domanda quasi standard, direi, che abbiamo fatto a tutti i suoi colleghi. Anche nel caso il governo decidesse di non consentirvi di sforare dal patto di stabilità per rimettere a posto le cose, voi lo farete comunque? Ci stiamo ragionando e stiamo cercando di capire come possiamo procedere, però è quella la strada maestra. Io le faccio un esempio molto banale. Il mio è un comune di circa 3.000 abitanti. Noi abbiamo chiuso il bilancio del 2012 con un avanzo d'amministrazione di 800.000 euro. che per noi sono importanti. Ecco, se a me consentissero di utilizzare le risorse mie, cioè le risorse che ho risparmiato nel bilancio precedente, io rimetterei tutto in ordine. Quindi noi chiediamo assolutamente che si intervenga sull'allentamento del patto di stabilità, perché questa è l'unica strada che ci può consentire di intervenire. Tutte le altre promesse sono semplici promesse, perché sappiamo che sono difficili da mantenere, ma soprattutto avranno tempi lunghissimi di effettuazione, di realizzazione. Abbiamo già sperimentato in altre occasioni, io ho subito un incendio devastante alcuni anni fa, c'erano state promesse e comunque la giunta regionale aveva deliberato per la disponibilità di risorse che non sono mai arrivate. Quindi mi immagino che anche queste che la regione ha promesso, che anzi si è impegnata a mettere a disposizione, che lo Stato si impegna a mettere a disposizione, avranno tempi di disponibilità che sono non compatibili con le esigenze soprattutto delle imprese. Quindi il governo ci deve consentire di allentare il patto di stabilità, così noi possiamo utilizzare le quei nostre soldi risorse. Che sono vostri per rimettere a posto le cose. La certo. ringrazio. Grazie Sebastiano Sannitu, sindaco di Berchida, per essere stato con noi. Una pausa, ci troviamo tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Troppi leader celebrano Mandela ma opprimono i loro popoli, dice Obama da Johannesburg nel giorno delle celebrazioni per Madiba, tutti i potenti della terra presenti. Prosegue la protesta contro il governo in tutta Italia, occupati binari ad Imperi e Cerignola. Uno dei leader della protesta dice: se Letta domani ottiene la fiducia andiamo a Roma. Grillo: le forze dell'ordine non proteggono più i palazzi delle istituzioni e i politici. Salvatore Ligresti torna libero, notizia di poco fa. La quarta sezione penale del Tribunale di Torino ha revocato i domiciliari all'uomo che è accusato di falso in bilancio e aggiottaggio nell'ambito dell'inchiesta Fonsai. Napolitano: il paese è in un mood negativo, dobbiamo reagire, basta con il frastuono delle polemiche, non ci sono elezioni in programma, aggiunge il capo dello Stato. L'evasione è un pericolo per la democrazia, parole del direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera. Saccomanni: dobbiamo contrastarla senza rendere il sistema fiscale un ostacolo all'economia. Felice Romano, segretario generale del SIULP, il sindacato di polizia, buongiorno. Buongiorno a lei, radioascoltatori. Prima di tutto, prima di parlare di questa protesta, della vicenda dei poliziotti che si sono tolti i caschi, vorrei capire come giudica queste parole di Beppe Grillo. Ma guardi, io ringrazio Beppe Grillo per la vicinanza che dimostra con queste frasi, anche se con il modo tutto suo, ai poliziotti. I poliziotti sono abituati ad essere figli di tutte le opposizioni e orfani di tutti i governi. Però voglio che sia chiara una cosa a Beppe Grillo: i poliziotti hanno giurato fedeltà alla Repubblica, alle istituzioni e al popolo italiano. Gli uomini che occupano le istituzioni le hanno scelte il popolo italiano. Quando noi difendiamo gli uomini delle istituzioni, difendiamo il popolo, e noi siamo qui a fare questo e lo faremo sempre, nonostante diremo la nostra sulle cose che non vanno. Ci spiega un po' meglio questa vicenda dei caschi che si sono tolti i poliziotti in alcune manifestazioni a Torino, a Milano? Innanzitutto, le risulta che sia avvenuto in altre città, in altri luoghi? Genova, Milano, Torino, per il momento solo qua. Guardi, è stato un gesto simbolico di adesione, non al movimento che ha organizzato la protesta di ieri, perché quello non voleva essere un'adesione al movimento, ma voleva essere un gesto simbolico per dire che noi condividiamo e viviamo la stessa drammaticità che hanno tutti i cittadini italiani in questo momento, con un duplice aspetto. Molti non sanno che spesso i poliziotti che vanno ad eseguire gli sfratti esecutivi a carico delle famiglie, perché hanno perso il lavoro e non riescono a pagare più l'affitto, e devono gestire la drammaticità dei minori, che in quel momento la disperazione dei genitori non tiene in considerazione, sono gli stessi che da lì a qualche settimana saranno oggetto anche loro dello sfratto esecutivo e che li costringerà a dormire in macchina, perché con 1.300 euro in città, in grosse città, per noi che siamo sottoposti a una serie di vincoli, non ci consente di poter vivere in appartamenti come tutti quanti gli altri. E lo sa qual è la cosa drammatica? È che al danno si unisce la beffa, perché non possiamo neanche dire che questi colleghi vanno a dormire in macchina, perché altrimenti l'amministrazione li punisce per aver offeso il decoro dell'amministrazione. In questo c'è il gesto simbolico, perché sono anni che quanti stiamo casi, quanti casi ci sono, Romano, quanti casi ci sono come questo? Come questi tanti, che ci stava raccontando? Tanti. Troppi, mi dà una dimensione, decine, centinaia, quanti? Centinaia, guardi, ma abbiamo anche decine di casi che come sindacato, come SIULP siamo intervenuti per sottrarre i poliziotti dalle mani di quelli che prestano i soldi a strozzo. Perché purtroppo con il nostro stipendio anche l'accesso al credito è complicato. E lo voglio dire, la ringrazio per questa opportunità, perché oggi noi possiamo affermare che la polizia italiana è una delle polizie meno corrotte al mondo. Ma questa cosa per quanto potrà andare avanti in queste condizioni, quando poi il poliziotto da quei suoi 1.300 euro è costretto ad anticipare pure i soldi per fare gli arresti, come quelli che ieri abbiamo visto nel Basso Lazio, o contro la mafia, e quando va bene a noi ce li restituiscono dopo 2 anni. Romano, vorrei capire questo, da anche osservatore di quello che succede, anche da un punto di vista, anche da poliziotto, vorrei capire se lei intravede o vede timori che queste rivolte, che per il momento sono state oggettivamente in gran parte pacifiche, poi insomma è successo qualcosa a Torino per esempio, lo abbiamo visto, però diciamo in linea di massima sono state pacifiche, sfocino in qualcosa di più violento e di più duro? Ma guardi, questo non lo dico io, l'ha detto lo stesso ministro degli interni, che teme addirittura il ritorno del periodo delle stragi, dell'aggressione violenta da parte della criminalità e delle forme eversive. Io voglio dire però un'altra cosa, che a fronte di questi rischi, ieri a Torino si è potuto constatare la vera faccia del poliziotto, fermo e deciso contro i violenti, e quelli che vengono in piazza per sfogare la loro delinquenza e la loro violenza, ma solidali e vicino ai cittadini che correttamente, nel rispetto delle regole, vogliono manifestare un disagio su scelte che, per quanto in un momento complicato, non individuano le vere priorità. Io le faccio un esempio per quello che mi riguarda. Noi siamo in una condizione in cui non abbiamo più i soldi nemmeno per aggiustare le macchine per garantire la sicurezza. E leggo che sulla legge di stabilità ci sono miliardi di euro per acquistare gli F-35 e rinnovare la flotta della Marina Militare. Ma il governo non pensa che forse questo rinnovo degli aerei e delle navi può avvenire pure fra qualche anno e magari oggi investire di più sulla sicurezza per dare più garanzie e tranquillità ai cittadini che già soffrono una depressione economica e del lavoro, ad esempio? Grazie Felice Romano, e quindi lasciamo gli ascoltatori anche con questa domanda, segretario del SIULP, per essere stato con noi. E noi adesso è l'appuntamento che insomma non è proprio quotidiano, però stiamo cercando di dar spazio con La Terra dei Fuochi. Parliamo spesso di Terra dei Fuochi, ma la Camorra ha agito nel traffico di rifiuti e dell'interramento anche laddove non si dà fuoco all'immondizia, dove non ci sono più nascoste discariche a cielo aperto. Il pentito Carmine Schiavone, nell'ormai famosissima relazione di fronte alla Commissione dei Rifiuti della Camera, chiarisce che il territorio di competenza dei casalesi si estendeva, e forse anche ancora si estende, al Lazio meridionale, alla provincia di Latina. La Procura di Cassino ha deciso di aprire un'inchiesta, ma la dimensione e i luoghi delle discariche abusive interrate non è ovviamente ancora chiara. Tutto avviene a ridosso, nei pressi e probabilmente anche all'interno della cosiddetta Valle del Sacco, Valle Latina. Il fiume Sacco ha un corso breve, 87 chilometri, che si snodano praticamente accanto all'autostrada del Sole. Un fiume che soffre anche di un pesantissimo inquinamento industriale. Secondo uno studio del 2012 sui tumori infantili nella Valle del Sacco, diffuso da Legambiente, a Colleferro, Segni e Gavignano si registra un aumento del 40% dei ricoveri per patologie tumorali nelle fasce di età dagli 0 ai 14 anni. Anna Natalia, del coordinamento Anagni Viva. Diciamo, nel 2005 ci fu un altro episodio clamoroso di levatura nazionale, la moria di decine e decine di capi di bestiame, quando appunto il fiume Sacco ci furono esondazioni, ci furono poi le inchieste che partirono da Colleferro quando fu erano scoperti i fusti interrati dall'allora mia BPD, ma non, nessuno di questi è un episodio isolato. Domani su tutto questo torneremo, vi faremo sentire altri audio e poi chiuderemo una bella pagina internet su questa vicenda. Intanto ci fermiamo per la viabilità e ci ritroviamo tra un attimo per sentire Platero. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero e di America 24. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da Boston, Mario Platero, sono venuto all'MIT dove c'è stato un convegno su povertà e sui grandi problemi per persone che nel mondo, stiamo parlando di centinaia di milioni di persone, pensate, non hanno servizi igienici, voglio dire servizi igienici di alcun genere, non hanno la possibilità di andare a scuola, di mandare i loro figli a scuola e loro stessi di imparare. Vi ripeto, centinaia di milioni di persone. L'MIT ha un laboratorio che si chiama J-PAL, che è dedicato appunto alla lotta contro la povertà e allo studio di ipotesi per poterne uscire o comunque per poter aiutare persone in difficoltà. Visto che cominciamo ad essere in spirito natalizio, ed ora in avanti cercherò di dedicare alcune puntate proprio allo spirito del Natale, la lotta alla povertà direi è in prima fila, per cui uno di questi giorni vorrò dedicare proprio un approfondimento a questa situazione. Ma intanto la curiosità è che ha partecipato ai lavori il nostro tenore italiano Andrea Bocelli, il quale ha la sua fondazione, la Fondazione Bocelli, e ha dedicato anche lui grandi energie, grandi sforzi proprio insieme all'MIT alla lotta di alcuni di questi problemi, soprattutto quelli che riguardano l'approvvigionamento d'acqua, quelli che riguardano l'educazione, ma anche un progetto straordinario che lo tocca direttamente, cioè la creazione di marchingegni che consentono ai non vedenti, per esempio, di poter andare in bicicletta. Ecco, vi voglio riproporre una chiacchierata che ho fatto con Andrea Bocelli per capire qual è la missione della sua fondazione. Buongiorno Bocelli. Buongiorno a voi. Bene, ci risentiamo dopo parecchio tempo dal concerto di Central Park, ma sì. Lei qui ha lanciato con la sua fondazione, con la Fondazione Bocelli, un'iniziativa straordinaria dal punto di vista filantropico. La mia fondazione nasce essenzialmente con due scopi. Il primo è quello di fronteggiare l'emergenza economica di questi ultimi anni, quindi combattere la povertà laddove si può. Il secondo scopo è quello di fare delle scommesse, di sognare la realizzazione di progetti che abbiano la capacità di migliorare la vita di qualche persona. Per esempio, in che modo? Qui siamo al MIT perché col MIT è nata una collaborazione molto interessante finalizzata al tentativo di creare uno strumento che risolva proprio alla radice il problema fondamentale di chi non vede, che è quello di spostarsi, di muoversi in ambienti diversi autonomamente. Ecco, e ci sono anche altre iniziative, so che lei si occupa di Haiti, di iniziative contro la povertà. Sì, queste sono appunto, rientrano nel quadro della prima direzione nell'ambito del quale si muove la fondazione. Queste sono da un certo punto di vista sono attività più facili perché l'obiettivo si raggiunge con più sicurezza, diciamo così. Certo, ecco, parliamo dell'altra iniziativa, quella per i non vedenti che poi la riguarda direttamente. Ecco, qual è l'obiettivo? Che progressi si sono fatti? In questo genere di cose i progressi sono difficili da spiegare, bisogna attendere e sperare che si concluda il progetto con la realizzazione effettiva di uno strumento che metta la parola fine a questo tipo di difficoltà, che sono le difficoltà soprattutto di chi vive da solo e da solo deve raggiungere il posto di lavoro, da solo deve andare a fare la spesa, deve muoversi in città per qualunque tipo di esigenza. E quindi si sta studiando che cosa? Un meccanismo? Quindi si sta studiando a 360 gradi la via di risolvere un problema molto difficilmente risolvibile, che è quello di sostituirsi con uno strumento all'occhio. E l'occhio è uno strumento creato dal buon Dio e difficilmente si riuscirà a replicarlo in modo elettronico, però io credo che oggi esistano le conoscenze e la possibilità di creare un qualcosa assemblando anche le varie conoscenze che esistono già in campo tecnologico, e per venire incontro al massimo delle possibilità a chi deve muoversi in città e risolvere il problema delle barriere architettoniche e quant'altro. Ecco, lei è in America anche per dei concerti, c'è la grande atmosfera natalizia americana che è sempre bellissima. E com'è l'esperienza di cantare a Natale a New York? Perché lei poi ha cantato a Las Vegas, poi a Phoenix. Com'è l'esperienza del canto natalizio? È un'esperienza fantastica a prescindere dal Natale, perché il pubblico americano è un pubblico straordinario, un pubblico che ama moltissimo la musica, ama in particolare la musica italiana, e riesce a manifestare il suo affetto, il suo entusiasmo in modo assolutamente singolare. E musica classica o musica mista? Che interpretazione? I miei concerti sono sempre stati e continueranno ad essere concerti di un tenore italiano che porta in giro per il mondo prima di tutto la musica italiana, partendo proprio dall'opera, che è nata in Italia, è bene sempre ricordarlo, e poi romanze, le grandi canzoni del repertorio anche napoletano, che sono state per lungo tempo cavallo di battaglia di tutti i più grandi cantanti del secolo scorso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi di cominciare a entrare nello spirito natalizio. Voglio farvi ogni tanto delle canzoni tipiche americane. E visto che abbiamo parlato un po' del Natale, beh, cominciamo subito con Dean Martin, Walking in a Winter Wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, oh, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird, here to stay is a new bird. He's singing a song as we go along, walking in a winter wonderland. Well, in the meadow we can build a snowman and pretend that he is positive brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid all the plans that we made, walking in a winter wonderland. In the meadow, we can build a snowman. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, Isotta Shen in redazione in assistenza, tutta la redazione di Radio 24, come sempre un grazie a tutti voi per l'ascolto. Se volete mi trovate su Twitter, Simone Spezia. Ci risentiamo tra un attimo col giornale radio.